uffetta. Harry! Che ci fai accendere? Harry! Chi? Che bel sacco sei! Mi bacca! Sacco sei! Non mi toè! Non mi toè, ma però! E lu... Giovanni! Che fai accendere? Sono vita solo! È vero! Ebbè, adesso stanco, sì, dai. Oggi hai lavorato, no? No, niente, negativo. Avete lavorato oggi? No, domani. Ah, tutto avete preso? Domani. Vai, va. Meglio così. Allora, amato, ma sei già graziano. La faccio cosa alle 4. Dove si accende? Gufo, ci sei. E cosa stava facendo? Appena buio, Ira. Allora. Grazie. Ancora appena buio, dai. E allora? Chi è che mi vuole? La Maria! Ebbè. Gufetta, ci sei. Ehi! Stai preoccupicando, stai, Luca. Ciao Giovanni! Ciao, grazie! Buonasera! Cos'è che stai combinando? Mina tanti su dall'erba mi figliuta! Gli ho comprato le guarnizioni al carburatore, i viraggi giambati, i ghivi, un derrato. La gita va a ponere in moto a me figliuta, chi era giusto che la baglia. Però non parte, mi sta fuoriuscendo benzina. Non lo so se da il carburante, fitta la marmita esce la benzina. Deve essere ingolfata da muti. E non in bacia, va domani se lo posso buttare da ghiaccio, di la butti muti. Vabbè, è più di un anno fermo. E infatti gli ho detto, compra le guarnizioni, le ho comprate stamattina, tutte le guarnizioni del carburato. Ah, non è il buco, da oltre che il bocci? Sì, ve la butti butti, adesso un vizzino. Ah, Luca! Vedi, Dio Maria, poi mi sto mangiando un po' di patatine. Appena finisco di mangiare rientro, sono qua in ascolto. Comunque, grazie a... sulla gastrada, se allora se è così c'è qualcosa di fare, stacca la pompetta che va a collegare al carburatore, no? Svuoti il carburatore, ci sei, poi cosa fai? Prendi la levi la candela con uno straccio, due punti sopra dove tu infili la candela, tiri, gli asciughi bene il pistone, poi cosa fai? Prendi la candela, la bagni col carburatore però vuoto, e vedrai che poi ti parte. Poi cosa fai? Una volta che ti dà una volta che ti dà, si sente che sta partendo, cosa fai? Prendi, stacchi il filtro, gli versi un po' di benzina e la fai entrare dal carburatore, vedrai che ti parte dopo. Qua lui mi ha già rotto le palle così, ce l'ha di cucciolo un derrato. Non il bosso fare, a quello piatto della benzina, ma pure curiato, domani ce lo mando là. Fare un'officina, va in branda, è tutta messa, con un fiato di benzina, boh! Ehi, ma una cazzata, grazia! Io ne ho messo uno in moto da ferma da un po' di tempo, non partiva, poi ti la volevo portare dal meccanico. Ma cosa fa? Portare dal meccanico sotto i lampati? Non è che io non ci manco il tempo, se non sei venuto io un attimo te l'avrei messo in moto io. Va, cosa avevo? Un diploma? Che lo voleva passare mia figlia, ci vuole provare, già l'ha provato, però voleva tagliare quel pezzo che è rimasto lì. E la gente, se ci riesci, fatelo, ma salilo su, perché sicuramente non li bacchi. Infatti, come te prima che tu l'hai detto, mi vai alla agricola sassarese e compra le guarnizioni, 10 euro, il kit delle guarnizioni. Le ho cambiate tutte, a chi dirà le zecche, figurate. Le ho bene cambiate, chiuso bene il carburatore, no, che mi è nata la banca, ho messo un piatto vecchio, fanno imbruttare. E tutto a posto il carburatore, pulito, e insomma, l'ho ripiazzato. Manco se ti chiudi un tiro di valla, Ah, poi io tanto per tirare ho provato due tre tiri, noi fammi. Però ho detto cosa, come devi fare, siccome c'è troppa benzina, se esce benzina fuori dal carburatore, cioè dalla marmitta, significa che è troppo pieno, non la sta bruciando, non ce la fa a bruciarla. L'unica, come ti ho detto io, fare così con uno straccio, glielo punti bene, tiri, però non ci deve essere benzina, asciughi quella che c'è dentro il pistone. Ah, ma dalla candela, stai dicendo, non l'ho guardata dentro, l'ho pulita, è nuova la candela, però con uno straccetto, il cacciavite, sul pistone era nero, no? E un po' l'ho pulito dal buco della candela, capito? Ogni tanto ho spostato lo straccetto pulito e ce l'ho infilato e gli passa per il cacciavite, leggero leggero, e un po' l'ho pulito così, capito? Perché erano i dubbi. E poi ci ho messo un goccetto di benzina anche dentro, oh no, lì dopo la candela, prima di mettere la candela. E insomma, ho una miscela e tutto, ma così ti ammazzi. Però sto spiegando come fare, poi sto per portare al meccanico, se c'è soldi in più porta al meccanico, io volentieri te l'avrei anche controllata. Solo che domani devo andare al lavoro, capito? Se non hai fretta, la posso controllare io, poi se la vuoi portare al meccanico fai pure. Io ti ho detto un consiglio come fare, una prova, asciugare bene il pistone, una volta asciugato bene che il carburatore che è vuoto, prendi, metti un po' di miscela nella candela e gliela avviti veloce e dai due colpi e vai a vedere se passi. No, fuori esce anche dalla marmitta, vuol dire perché ce ne troppo. E vabbè, domani lo prova qua. Non ne ho fretta, no. Tanta vaghi, ti dico, più che burro, non hai compreso. Però domani ci voglio provare, vabbè, come mi hai detto. Però a tirare glielo posso tirare a mia figlia, non le tiro io, non ce la faccio. Va, perché tu non ce la fai, vabbè, non c'è problema. Però, come ti sto dicendo io, fidati. Domani a Mazzano, se ne ho voglia, sono in vena, già ce l'ho qua nel terrazzo dentro le buste. L'ho provato a fare come mi hai detto, ci svuoto il carburatore, ne levo la candela, pulisco bene dentro lì e poi bagno la candela, ce l'ha riavvitto. Il carburatore ne smonto tutto, ci rimbio i due, tanto sono due visti, già faccio veloce, due minuti e fumo, così lo svuoto bene. E io, va bene, avanti Gio Mari. Tanto comincia a rompirsi le case, non passivo di che le cose che non hanno. Oh, può essere anche il filtro, quel filtro c'è dentro il serbatoio c'è un filtro piccolino. Certe volte si tappa quello e non passa bene la miscela, Oppure sono le membrane, capito? Io quando mi capita così ci butto appena appena di miscela dentro, le tolgo la candela e ci butto appena appena in benzina, rimetto la candela e parte subito, capito? Ma adesso domani fino a Giugana faccio come ha detto Luca, poi quando viene mia figlia il gruppo posso provare a tirare, già per avanti e da tirare. Si fa che basta, se no mi sto gabbattendo già una lungo chiusa e me lo usano uno nuovo. Ah, va baito. L'altro giorno non mi partiva la motosega a me, quella piccolina. E sulla maniera, Allora abbiamo fatto così, ha tolto a candela, Luca ci ha buttato appena in benzina. E poi anche se la fermavi e partiva subito, Una volta che parte non si ferma più quella motosega, ma è vecchia, Cioè, trova 30 anni quella motosega, però è un treno quando muore in marcia. Ma infatti devo stare dicendo di fare così, già parte, no? Non sono le guarnizioni. Se io ne ho messo in moto una che era da un bel po' di tempo, sì, mi ha dato un po' di cose, ma non ci ho messo molto neanche. Ho fatto quel giochetto lì, molte volte le moto quando non partono, cosa succede? Che mai non arriva bene la benzina, capito? Allora cosa fai? Ci prendi e ci bagni la candela, perché quando libri la candela che è asciutta, poi una volta che fai quel giochetto lì, a voglia, sai come parte. E domani ci provo. Mi devo aspettare 10 minuti che sono al computer che devo guardare in questo decespugliatore comprato dall'estero che mi viene una cassata, 30 euro. Buono mi? Buono perché ne ha preso uno, un amico mio, e le trattenne che va, ma non ti giuro, bevo, a me non mi piace. Quelli a farfalla. E hai a farfalla? Che rimane largo. C'è anche l'altro, questa specie di manubrio. E allora, siamo qua noi. Sempre dalla Cina arriva, cinese. A chi ci compare chi è da un'idea che arriva? Chi ci compare che è di Hong Kong? Cosa, grazie. Se c'è spogliatore, se lo compro. Però devi essere zitti, Tu paghi una cazzata. Ehi, cazzo, dalla Cina, cazzo, c'è spogliatore dalla Cina. Se c'è spogliatore dalla Cina, 30 euro. Già acquistato uno e fatti viaggiare un padrone. Non sapevo che mandavano anche il cespugliatore dalla Cina. Chiedi a Luca, questa ricambio o dimandano, chi su di voi dimandano, basta che tu non paghi. Però devi aspettare sempre è un 2 mesi, ti dà. E soldi ne mandano, grazie. Grazie, soldi ne mandano dalla Cina. Ti mandano anche i soldi, fa che simile, 50 euro, 100 euro, 500 euro, anche di Dinavani con la valigetta, se li vuoi, proprio uguali sono, poi però devi cercare di facciarli se per lì. Non sapevo che mandavano anche c'è spogliatore. Ma ti l'hai fotografiato? No, adesso no, appena lo sto rintracciando perché ci sono vari siti, capito? Come lo ritraccio faccio la foto e te la mando. Aspetta, mi assento 10 minuti, là, che lo cerco. Cerca. Attrezzo spogliatori io, ho uno nuovo in magazzino, mai usato. Da 44, certo, si può immaginare che però a vedere com'è. Sai cosa ti amare? Che male tu non trovi pizzi. Cos'è lui? Ho detto che magari non trovi pezzi di quelli dei cinesi. No, non lo sapevo perché c'era anche lì il cespugliatore. Anche per curiosità, mi piacerebbe vederli come sono, va. Vedi un po' se vai alla candela, ma ne dubito. C'è uno che l'ho pagato 400 euro da Mariani quando era in via delle Conce. Cazzo. È di marca quello. Cazzo. Dopo 20 giorni, cazzo, si mi sono spezzati le frizioni, le due frizioni, cioè, è bloccato tutto. Mi straggio il bolso e dice qua è rotto tutto, dice ci vuole la frizione nuova. E allora mi voleva pagare la frizione invece, ma ci avanzava mai su i bici e andava a me. Ma svoltamelo, fammelo vedere. La svoltata c'è quei pezzi che quando gira forte si allarga, no? Quei due pezzi, e lui voleva cambiare tutto in blocco. Tu ma visto l'aia? No, se l'hai macchino. Per carità, siamo perdono. Già lo sanno loro come fare. Una volta, ma stesso, lo stesso cespugliatore. Non mi voleva partire in nessuna maniera. Cazzo, ce l'ho porto. E ecco di garanzia. Voglio fare, no, ci vado dopo 2 giorni. Ma no, dice ci vuole carburatore nuovo. Ma così, se è nuovo, mi ha travagliato, ha fatto 2 giorni di travaglio. No, dice non serve più carburatore, ci vuole carburatore nuovo. Ecco, c'è bella, ma meccanico sei tu. Dice sì, beh, a parte forse perché tu lo sei proprio meccanico. So che l'ha addretto e l'ha giù di tutto un particolare. Tu quello puoi vedere il carburatore. Com'è come non è? E ha dato il cuore di un colpo di cazzovita a partire un cespugliatore e a cuore camminenti. Dio Maria, l'onestà è quella, capito? È l'onestà. Vabbè, non sono tutti onesti, no? Ma te ne immagini, la vita mi ha fatto incazzare veramente. Cattala. Ma c'è un male rugoso, mi ha fatto un bago molto di anni. La finanza l'elogiamento, si è cagato sotto, avvio. E dopo mi ha detto, vabbè, dici, dammi 30 euro, va. Ah, beh, allora cominciamo a fare da. Giovanni, ripeto, gente onesta, poco ce ne sta. Allora, Zulti, non lascia attenti di tutto per niente. Ma così di chiesto si ripete bugia, giusto? Non l'acquistate, poi si ripete bugia. Se voi non lavorate onestamente, come fate, caro? Non dico io. Fammi guardare qualche cosa in più, però fammela la cosa, come ti si deve, gatta. Ma infatti, ma devono essere anche onesti, capito? Non è che te la devi rifare, anche l'onestà ci vuole. Vabbè, purtroppo non tutti ce l'hanno l'onestà. E poi è il più o meno, lo figliolo, che l'ha già amato, che mi ha fatto cazzare il vicino che vira a meccanico. L'ha già amato a tretto, ha detto guarda, sono già messo subito la finanza ai rocchi, ha detto questa cosa, poi tu ti scuola attore, perfetto, e tra l'altro tu piglia la guaccia a vita e quei due guai per patrugia esploratore. Mi ha già messo in faccia, ha detto tu sei un pezzo di baffaculo, l'ha detto. Non sei un meccanico, tu sei un ciaffuratore, ma che riesci mai a fare che tu travagli così che vuoi fare? Canta, ma andiamo quantato un po' qui. Tu gli hai pagato con i soldi, mica te l'ha regalato. Vai a fare con tu fuori qui, in mezzo se la metà dallo tra con tu fuori qui su. Cazzo, evidentemente tu non fa anche tu, capito? A chi ha cantato giù un prezzo, giocava il benzimo nei mezzi, si andava all'amico suo, sai tu, cazzo, per un bagabere buono, capito? Sì, ma ne bucava i pezzi buoni, vostri, e si quindi agli altri amici. Ah, ragazzi, non c'è niente, cazzo. Da buia. Dammi la giubbata amici per cura, va, io ripeto, talmente se mi fermo, ma te, però se la giubbata no, che era butti butti, ma te, da Maria non se la giubbata, e no, che la mia divisiva, allora se la giubbata io, se la giubbata 25 euro, ma poi fai il membrano in ubi e ancora camminendo. A quando la taglia erba molto seca, le fai le manutenzioni giuste, ma c'è manco bisogno di portare al meccanico, capito? Può capitare, magari c'è stata la carburazione, poi le guarnizioni te le puoi cambiare tranquillamente, la candela, tutte queste cose. Non tutto si può fare, capito? Io mi arrangiamo un po' a tutto, però va, se mi fai distillare, ma ponete in marcia, no, catta, no, non farmi solo i prati, così che si può fare, chiaro che si può buttare al meccanico, no, e allora, ma non mi guardo i prati, vado a pagare 20 euro, catta, io. Ma vabbè, io già ci riesco ancora, grazie a Dio, poi io se non ci riesco la porto alla meccanica, ma non è che, tipo grazie a non vediamo un problema che si può risolvere. Poi se la vuoi portare alla meccanico, la portare alla meccanico, non è che ci mancherebbe. Certe volte capita, io ne avevo uno, che non voleva partire, per sulla ragione. Certo. E dice, ma bravo, i soldi si lo sempre più, dice che sto appena là, cos'è l'altro. Da poi ha visto che l'ha pigliato un altro tipo in mano. L'ha cavato questa bombetta al vento al serbatoio che aveva un filtro, l'ha beve buffato con l'aria, tirbo nel vento, fuori, ma appoggi marcia subito, e l'altro vorrei sciapolo in marcia. Ma infatti, è quello Giovanni, capito? Già ce la fai, basta fare come ho detto, io faccio così, quando ho dei problemi, poi se non parte che ci sono altri problemi, allora è un altro conto, capito? Io ripeto, quando si ferma che non parti, ripeto, c'ho il cambio, capito? E da voi magari un comandato e me lo posso a posto, capito? Certo, magari prima, vado, se non riuscirà io a ponere in marcia, mandano a mano per apposto, lo saranno. Sì, no, se non parti, il figlio si può tagliare, così che arrangia niente, che è tutto pago, però non mi tracco che per avere l'affatto che ti rendi che su candavo, dove niente va, dove niente va, Gio Maria, 60, quanto è che vieni? 60 euro vieni. 70 euro, mandami la fotografia. 60, 5 e 1, 6, 60. Ho detto, mandami la fotografia. Adesso aspetta che la faccio te la mando. E dopo questo sito, grazie, cos'è? No, Luca, è un sito questo, di domanda e offerta, capito? Ma non è che ho usato, no? No, tutto nuovo, ci sono motozappe piccole, molto coltivatori, tutto c'è, tutto questo che vuoi. Le rinavi voi, pochi, malati e subito. Ho capito, iaia. Vabbè, se sono buone, ma bisogna vedere. Qua, cioè adesso c'ho una motozappa, allora motozappa, molto coltivatore, a scoppio, due tempi, 52 cc, 185,90 centesimi. Però da lì devi detrarre, capito? Mandi una cifra, adesso te lo dico, aspetta, guarda questo, aspetta te lo dico. Ma bisogna vedere il cavallo, che quanto è con te, sono i cavalli, capito? Grazie, i cavalli quello che contano. Allora, viene 89 euro. 52 cavalli. 52 cavalli c'ha. Quanto? 52. Non ho capito, quanti cavalli c'ha? 52, 52. E viene 80 euro, va. No, 89. Ah, 89. Paghi solo 89 euro e ti mandano isso. Ho capito. Dai, dai. Capito. E mandami la fotografia del cespugliatore adesso. E poi se mandi quelle del motozappa è meglio ancora, dai. Aspetta che la so facendo. Ma purtroppo, ma anche se tu vai su e ci sono motoseghe che costano poco, io avevo preso una bellina, la mia leggera, era un treno. Tu conta che io ho tagliato un tavolone da cantiere, di quelli grossi. Ah, un tavolone, era di un soppalco, quei tavoloni grossi. E se me l'ha tagliato, subito. Gian Maria, mica te l'ho mandata, guardatela, due foto ti ho mandato. Io la sto guardando. Luca, non vuoi vedere tu che te lo mando? Adesso te lo mando, va, a tre. Manda. Questo viene 61 euro, viene. Bellino. Quanto è? 61 euro, paghi solo. E costa, aspetta, quant'è che costava? 120 e spicciole, là. E tu lo paghi la metà e la paghi, capito? Tu che paghi 61 euro. Ma aspetta, pagamento come? PayPal? PayPal o bonifica, però devi aspettare due mesi che ti arrivi. Già, ti arriva. Te lo sto dicendo che l'ha preso un amico mio e se lo sta adoperando adesso. Le ci dà pure una campagna e se prende la campagna quel tipo che gli ho venduto la motosega e se l'ha ordinato da lì è bello pure, anzi quello che c'ha lui è c'ha le bretelle davanti a zaino perché è pesante. Sì, però quanti cavalli è quello? Questo è un 26, questo qua, però ci sono gli altri che costano 70, 80, adesso da quello da 32 quanto era? Quello da 52, 89. Quello da 52 era 89 euro. Costava l'uno più. 200 e più. Allora qua su eBay ce n'è uno. C'è spugliatore rasa erba, taglia erba, tosa erba, 52 cc, motore a scoppio, due tempi, 100 euro. Ma c'è un bel di tirano l'olio, la candela di scorta, tirano la come si chiama, il filo, l'olio, i guanti, poi ti danno il coso dove mettere la lenza, là, lo spago non trovo già, ma 100 euro. Allora, quello che sto parlando io è di marca, è marca Alpina, già la conosci la marca Alpina, è buonissima come fabbrica di decespugliatori, motoseghe, trattori, eccetera, eccetera. È quello che la marca è, magari una marca così. Ah, Alpine quello, ho capito. Questo, boh, questo non lo so che marca, vediamo. È bellino comunque, piccolo piccolo, bello. La marca non lo so che marca, c'è scritto LG Motors, non lo so. Sono di marche 13, se paghi 5 pulino che marca di 13, a 30 euro, a 40 euro, a 50 euro, però c'hanno marche, addirittura certi manco marca, cioè, non c'è nome, nulla, vero, c'è spugliatore bellino e bellino, però non c'ha nome, capito? E cosa ne sai di dura, due di? Almeno quello che ti dico io sono di marca, ma prendiamo adesso e adesso non li bisogno, quella è Alpina la marca, è buonissimo. E qua c'è 50 cc, vediamo. È molto coltivatore, manda grazie alla foto. Aspetta, appena ci arrivo già te la mando. E poi Giammari, quello che ti ho mandato io, se vedi tu la secca, c'è una maniglia al centro, quella la puoi staccare, levi il pezzo del rocchetto dove tagli l'erba e ci puoi infilare la motosega come quella che ti hai comprato tu. Prendi, acquisti l'altro pezzo, il pezzo del tubo con la motosega, lo incrassi lì e fai, fa motosega del cespugliatore. Fa anche quella forbice a zigzag, ami, però devi comprarti i pezzi, capito? E adoperi sempre col motore, quel motore, e puoi usare vari pezzi, a tagliare l'erba, a tagliare la legna, tutto. Già l'ho visto. Infatti a metà c'è il snodo dove viene messo quell'altro attrezzo, sì, infatti togli il spogliatore e metti la motosega oppure il tagliaerba. Ce l'ho quello lì io, ce l'ho quello lì, capito? Per cui fa la motosega e taglia cespugli, eccetera eccetera, capito? Dattelo. E adesso già l'ho visto, io sono bene, l'importante da quanti cavalli è. Eia, comunque Sibiglia Veno, c'è la marca, ce n'è roba che non è di marca, la paghi due cicchi, ma la roba di marca la paghi così, quello che ti ho mandato è di marca Alpine, la marca è buona come marca, capi? E poi anche i pizzi qua, di quelli, li trovi. Ma da quant'è? Da 33, da 43, capito? Quello volevo sapere. Quello che ti ho mandato a te era da 25, però ci sono gli altri che costano sulle 80 euro, 52, però viene a costare 80 euro, ma a prezzo pieno costa 250 euro, e invece comprandolo così viene 80 euro, un 53. Ho capito. E manda la moto coltivatore adesso, dai. Va bene. Aspetta, appena ci arrivo che sto guardando altre cose qua. Ah, già te lo mando subito. E raddoppia, ce ne sono, grazie. Ehi, carciofi, favette, di tutto c'è. Ma anche di plastica. Tutto quello che vuoi. Raddoppi. Raddoppi, che raddoppi? Per la bambola. Ehi, già visto pure un rattoppio, spari tutto dalla ragazza. Vuoi una bistecca, ti mandano la bistecca. Ma non lo fiamme, ce ne sono. Se sto chiedendo se ci sono rattoppi, Marì. No, bambole non è gonfiabile. Bambolotti gonfiabili, solo bambolotti. Bambole non ne hanno. A chi dice è pieno di, in Cina di bambole? No, noi al centro-sole che vogliamo le bambole gonfiabili. Poi i rattoppi li usiamo per rattoppare. Vabbè, continuate, scusate, riprendi, grazie. Adesso faccio qualcosa. Ehi, Marì, guarda su eBay, ci sono le bambolette. Luca, dagli un consiglio tu, flippero. Già gliel'ho comprata, capito? Quando un mesetto fa è arrivata, è contento, però non c'erano i rattoppi nella confezione. C'era da poco sul giornale, anche su internet. Quella bambola gonfiabile che hanno arrombato in alto un cassonetto, l'hanno tradita, l'hanno abbandonata. In via Umberto. In via Umberto. L'hanno tradita, l'hanno buttata in corso e se l'hanno incutata un cassonetto. Poverina. Dopo che se l'hanno bella sfruttata. Oh Luca, non dare sai. Flipper. Luca ce l'ha buttata. Capito? Ha detto non esegui più avanti. Luca, ma mangiando ancora sai, manicomio. No, ciao Marino. Ciao Marino, mi senti? Marino, cambi. No, non sto mangiando, grazie. Sto cercando un display per il telefono mio, che non lo voglio più così rotto, mi ha già rotto le scatole. Costa 190 euro, allucinante un display. Aspetta che faccio la foto di questo motocoltivatore, la manda Gio Marino. E quanto viene questo? Aspetta, sto guardando cosa viene a costare. Ciao Maria! Adesso me la sto facendo, viene, costa il motocoltivatore, costa 590 e comprandolo viene, quanto era questo? 236 viene a costarti. 236 da quanti cavalli è? 196 cavalli, super potente, professionale, certificato c'è, motocoltivatore grande, avaro vedo, un mostro è, con il rosimane, il gofano, aspetta che te la mando, anche il faro, c'è anche la luce c'è. Lo prendiamo e portiamo a campagna di Luca Flippero, a Laura. Guarda che te l'ho mandato, viene 236 euro. Sì, lo sto guardando. Due, un mostro. Ti piace? Aspetta. Vero, Gio Marino, io sono andato a Giura, però. Già è peggio, già. A voglia, ma è migliore che sul Vangelo. Già è peggio Buruvizio, però deve aspettare un due mesi. No, di più. Anche di più. Dipende dall'articolo, capito. Però rivali, la pena, non ha giù compreso. Risparmi più della metà di quanto costa. Cantati cosa, chi sono? Quello che ti ho mandato viene a costare 236 euro. A te, a prezzo pieno era 590 a prezzo pieno. Già si può prendere là. Solo che magari se si guasta, se i pezzi non ci sono, chi dà ragione? La cosa che li metti ragazzi dappertutto lì giù. Allora del cespugliatore di marca Alpina ragazzi è in Italia la marca. E dunque vedi. Cos'è marca Alpino? No, questo la marca no, non l'ho guardata. Che marca è? Aspetta e guardo. Ma il cespugliatore che marca è? Alpina. Ah, ce l'ho da 44 io ce l'ho. Ce l'ho nuovo, non mai usato, L'avevo preso dal bricco, quello di via Portatore, quello che ha chiuso. Lì l'avevo preso. E quello l'ho pagato, dunque, 170 euro. E dopo ce l'ho dentro la scatola, nuovo no, ma ancora manca aperto la scatola, da 44. E già me lo ricordo quando sei andata a prenderlo, che stava chiudendo. Vabbè, mi aspetto 10 minuti che sto cercando altre cose qua, riprendo dopo. Eia, eia. Che altro c'è rimasto qua? Para liquida, grazie. Mari, tu sì, Mari no. Sì, stavo dicendo a Graziano di prendere anche la paraliquida. Fratello! A Graziano a prendere anche la paraliquida, gli stavo dicendo. Ah, A proposito, domani Andy me la compra paraliquida, ragazzi. A me non ho troppo quella gomma. Vai lì via Boggino. Certo, se io sto cacciando un buon pendi. Vai, o in via Boggino, oppure anche da Ipercina, quello che c'è qua, via del Porto Torres, il cinese grande. No, vado lì via Boggino, ragazzi. Da quello lì e prendo la paraliquida. L'altro piano ce l'abbiamo. Sì. Tu, Peppa, non rispondi a... Dormiti siete. Grazie. Domani, dormitosi. Ma Filippo di Parigi, Sta cubicando. Cubicando, sta. È vero. Sì, ho detto già in fondo, alla fine. Se no a Reggio Calabria si ingazzano se non le fa il lavoro, Si complica di gorra. Brutta moneta. Occhio che la giocabra devi farsi onniao, occhio. E chi lo ha buffuretto, non so come te l'occhio. Ma dopo per rimanere male, che già fatto. Te la gappari. Che ha fatto, lì? Io avrei evitato comunque a prendere roba da loro, mamma mia, ma carità, che gentaglia. Cosa Lu? Però Giovanni, è meglio evitarle queste persone. Cosa me ne frega a me? Sì, da poi teniamo se non andiamo. E poi io sono venuto con voi. L'ho capito, vabbè, contento tu. Te la voz di lui, non ti sento. Ah no, direttamente, li ho portato io. Sento lui. E a chi, Giomari? Ah, ma sì. Sì, perché sto parlando a voce bassa. Mi pare a cazzo, lui, un'altra persona, cazzo, fa vedere, che non li intendo, cazzo. Alza il volume, non devo alzare io la voce, devo alzare tu il volume. Ma che abbassi il volume? Si mi sta staccando tutto, Luca. Cazzo, e tu, cazzo, mi sei mio vicino, mi intendo, intreccia lo bozzo. Perché Luca ce lo mangia per forza, se lo pongo in bocca, e io non me lo pongo in bocca. E allora cosa ti vendi di bello? Adesso me ne levo tutto da qua, se no Paoletta andando bene mi ricordo a capo, lo confisse. Gatta, se anche chissà cosa bisogna mai dare pure, gatta, non devi mai dare se paeta. Cosa hai detto che mi ha chiamato mia figlia per la disegnicosa? Non ho sentito Gian Marie. Ho detto, non devi mai dare se paeta, no? Devi mandare per un compito ogni tanto. No, mi è giunta Valava. Oggi gli è toccato il balletto, è rientrata oggi. Tutta sciancata, Gian Marie. E adesso, grazie a esso è bello, a esso è bello. Mi hai chiamato? Saluto, dammi la pace, non voltare. Fai così, grazie. Ti raccomando, piano piano incomincia. Già, fra poi anche a domani a mangiare via. Lemme, piano piano e sempre a vendi. Sì, te l'abbiamo giunto. Si chiama Luca, a fare il birichino. Lo è Giovanni, le l'abbia giunto l'MLM. Grazie di fare così, senza pressa, senza sudare, senza il modo che non le pecchia fanno. Ciao piano, magari gli ha finito Maramazzano. Ehi, già finito, un raggiunto con un tubo di ossigeno, ma questo non è un problema, aumento l'ossigeno. E così si crepa più in presa, ah, c'hai fermo. Ah, è belli, è maletta, tutta fantasia. Ciao Paolo, ma ti mangio da Graziano, ciao, ti posso intenzione fea, tutto fantasia, Gio Mario, oh, e vieni menina. Guarda dove è entrata oggi, a patasso con tutta sciancata. Cosa da giudizio? ma che pensiero, vabbè. Ma che vi pensa, tu? Ma che un pensamento? E allora, io non credo. Oh, che buonasera, roba sentita. Ciao Lore, ciao Luca e ciao Marina. Anche Luca Flipper. E ciao Luca Flipper. E Marino pure in ascolto. Come ti mani visto, Gio Mari, mani tutta baciato. Inteso hai, mocca. Ciao Paolo. Ciao Mari. Moscia moscia e Marina, Paolo. Ciao Paolo. E cosa va? Paolo, ti fai i muscoli ballando, già fa bene, dai. Marina, cosa va? Nulla, mi sto guardando avanti un altro. Moscia. Ma va, perché tu sei giurante o muro avanti? Ma vai tu, un televisore. E ero manco cata. Mi mancava 17 di ma. Mari, tutta sciancata, mi sono cogliuta. Come mai? Perché ti prova, mancava un paio di giorni quando Graziano era ricoverato, non ci sono andata, non ci andavo. Ma un mese ci mancava. Quasi un mese, quindi. Sì, un mese. E dove vai? Dove vai a chi? Ah, qua la Feroce! Vicino... Dove c'era il Setti prima? Di lì! Ho capito! Che tu fai questo? Fai tu, con Paoletta! Parla! Anche coppie, marito e moglie vanno, Mari, tutti, ma c'è la gente che va poi! Due volte la settimana fa 22 euro! Oh, fa un mese a voglia! Già ci va un sacco di gente, anche marito e moglie, di tutte le età, da giovani, giovani no, ma insomma. Pure giovani, anche, comunque già ce ne va gente. È la voglia. È uno svago, ero manco per un po' di ginnastica e impari anche i balletti. Fanno anche balli di gruppo, fanno anche le gare, fanno. In certi periodi. Quest'anno ci tocca. Quest'anno gli tocca la gara di nuovo. Fanno anche gare, poi ci sono i primi, no? Allora, 22 euro al mese per due settimane, non ho capito, ma com'è? Allora, vai due volte alla settimana. Tutto il mese e paghi 22 euro. Ma due volte alla settimana sono 8 volte al mese e paghi 22 euro, giusto? Vai due volte alla settimana. Ma che cazzo? Oh, ogni settimana fai due giorni. Due giorni. 8 giorni. 8 giorni. In un mese sono. 22 euro. Però ti svaghi. Già ti diverti, c'è scritto un sacco di gente, è pieno, mi. Lo posso immaginare, ma lo posso immaginare, mi si può venire Marina. Ci vanno anche lì con un sacco di cuche, ci vanno. E io ci ho andato una di Paoletta, ma me ne sono andato dopo. Non mi piace a me, rimane così, capito? Ma comunque qualcosa la stai imparando, Paolo, sì. Fica qui a 4 anni, Luca, voi avete fica c'è 4 anni, noi che vedo, vi dico. Ma è 4 anni già che sta andando, già sa ballare Paolo. I io mi arrangio, lei è più brava. Ho capito. Vabbè, non è male l'idea. Adesso vediamo. Io perché non ci posso andare a fare problemi che faccio, se no già ci sarei andato. Perché ci sono anche un sacco di amici miei, anche gente dell'età mia, anche più minori. E della crepa ci sono un sacco di amici miei, mariti e mogli, capi? C'è un po' di gente, c'è. Ho capito. Adesso vediamo. Olù. Tu? Beh, grazie a noi chiamai Tony Manero quando entra i chivi. Ma io quando sono calato, la sono calata, ci basta già un travolta. È vero, grazie, a colletto alza figura. Domani che va più l'ossigeno. E non fate più, magari. E torna con l'ossigeno. Beh, che non fa, che c'è un sacco di gente, ma buffonete. La giornata mi pare un infarto, in abissa. Tu lasci la bombola all'ingresso, un tubo lungo 25 metri, grazie. Capita, le scarpe col tacco. E allora, no, è capace per rimanere secchi, no, non fa più. Già la cuba dall'altri. Sono andato sì a guardare, ho guardato già è bello, già si vede. Però a me, a Sagusci andare a badare non mi piace. Grazie, non fa danno, mi non avevo di rammi. Mi non avevo di rammi, barifiori. Ciao, ti fermo. Ma io non faccio da andare, non sono cuscemo. Già chi tu mi ha detto, l'ubromologo, cerchi di fare i minimi movimenti, niente scatti, lì deve andare piano, piano, piano. E di me, già non corro, non si preoccupi. Infatti, bisogna andare piano, piano. Se è possibile, tu basta mettere la pulmicola. Stamani sono andato da Cavalieri, mi sono occupato di Zibucchi, ed è un bacio dai noi. Però mi devo fermare per forza, è la lingua pura. Fai bene. Fai un bacio, ti fermi, cazzo sei, cazzo, pensa alla salute che mi dico, senza corri piano piano e sei tranquillo. Mi sono pensato un chizzo stamani, ma un bel chizzo mi. Ma ho pensato la TV, poi piano piano. Ma ci ho fatto pure la colazione, a chi era nel liceo manco 20, la partita è da finire, sono andato di già alle 9:15 sono arrivato, dunque già, perché avevo chiesto mia, se faccio colazione 2 ore prima, le analisi te li fa lo stesso se vai dopo 2 ore, 2 ore, 2 ore e mezzo, capito? Eia. Bisogna andare piano, ma che esci prima magari, e piano piano arriverò a te, sì. Bisogna fare uscita. Ho appena in macchina, sempre un'ora prima esci. Non so così chi anda all'orario giusto. Sempre un'oretta prima ci esco. In macchina vabbè, calcola il traffico, il parcheggio e tutto. E ci basta i 3/4 d'ora, buoni, secondo dove devi andare. E dunque in genere arrivo sempre quasi giusto mia, dove devo andare. Infatti, io quando andavo a fare che business esce sempre prima. Così che, no, senza pressa, senza correnti. Tranquillo, piano piano, e già arriverò a te. No, non mi libiglio di pressa, io mi libiglio prima. Intanto, trovo un paio d'ore, mi discendo. Dunque, passami l'uretto, mi libiglio, piano piano, posso le cose che devo fare, da poi tranquillo e felice, anche il giorno che sono salito entrare con Paoletta. Un'ora prima di Gesù Cristo, adesso che arrivi, dicevi che vivo lì, 20 minuti che toccava a me. Dunque, andavi. Eia, tocca. E allora, Giovanni Giulia, Vabbè, grazie, dai, pochi passi, dai, pochi, ma frequenti. Non è che io posso pure il macurrino. Me l'ha detto il medico, lei deve fare movimenti piano, camminare piano e camminare, mi ha detto. Ti vuoi la ricaffurà, saluti. E invece, va per la currifero, ma mi sa che no, lo fa per te. Posso fare rubare, non posso fare. No, non mi si niente, entra. No, io posso guidare un furgone e fare rubare. Mi dà la doppietta e posso rubare il ghibi, non si sa mai, no? No. Vero Giammari? Allora, infatti, fai bene, grazie. Ma è per tu, lo sai che se ti bizzi che c'è lì, un cambio rubato che tu vedi, chi sei dentro, bizzi che. Vero Giammari? Eia! Non la sapevi, Luca? Sì, lo so, e beh certo. E come un ladro se ti vendi la cosa? Pidi più tu che vi leggo parata come ricettatore che un ladro che ti l'ha venduta. Anche così, anche quello è così. Lo so, ricettatore prende di più, lo so. Dunque, vedi, sempre il pericolo di più lo piglia sempre l'altro, non proprio quello che ruba. Lo so, vabbè, pazienza. Niente, allora. Adesso questa analisi mi ha detto venerdì sono brutti. Aveva mandato un foglio per andare a ritirare. Prima andavi, gli dicevi il nome e te li dava. Adesso ti ha mandato un foglio e va a portargli quel foglio. E va bene, venerdì ci vediamo. Vabbè, ci mando a qualcuno a ritirare. Tanto mi servono per martedì 9 per la visita da diabetologo. Mamma c'ha allora, ad aprile mi sa verso il 15, no, non mi ricordo, forse, vabbè prima c'ha i prelievi e poi la visita dal diabetologo. E c'è anche la visita del pulmone, questa figa di ieri, me lo scrivo nel calendario. Allora, il 9 dal diabetologo, visita il 29 dal pulmologo, ce l'ho invece, alle 10, alle 11 meno 20, da. Ho capito. Vabbè, c'è tanto farmi, da. Domani devo telefonare pure al dottor Cicco dal gastroenterologo. A chi dovevi andare a Ed invece mi hanno ricoverato e l'ho avvisato dall'ospedale dopo due giorni che non ci poteva andare e che l'ho ricoverato. E mi ha detto quando esce, si riposi un po', poi mi chiama e gli fisso un altro appuntamento. E domani lo chiamo. Beh, certo. A me chi se mi interessa dalla banda, chi faccio a dritta. Dove mi sarà ristretto l'intestino? Tutto gravalla, pare un cantone, boh. E così, Hai visto Luca Flippa e gli mandano la roba dalla Calabria a verniciare? Importante è diventato. L'onda gli si sta aprendo anche fuori in continente. Hai visto che è bravo? Sì. Secondo me questo diventa veramente un artista. Un imprenditore, Massimo Pagiudani diventa imprenditore. E ci va se di là e non si secca più. Aspetta, gli faccio tre messaggi. Marino, Bevigliura e Filippo, esci a Baidalle. Luca te li mando. Allora te li mando, sì. Ah, se non te li mando più, Luca. Cosa? Due cose che mi hanno mandato, non te li mando più da. No, se non puoi, si arrabbia. La seconda è Paoletta, mi ha mandato a mio figlio la fotografia. E c'è la terza e un cagnolino. Ciao Mari, che stai facendo? hai sette di niente, chi ci banzi manno, ma mi pare che non la gana, chissà cosa spendi, va. Avvedomi. Senta, sempre fedie, ma in terrazzo, chissà cosa combinendi. Ehi, occhio, non mi riesci a stare in terrazzo, se mi passa chi su, chi riesce a vendere la copicattura, ti tirami, occhio. Capito. Allora, c'è Mario, devi stare in tua casa, tu, chi si passa chi tu tira. Però, è importante per girare in capo. Sì, però, ti rispondino, magari accontentimi. Sta cubicando, che la so, esce a vedere. Altri 5 minuti e devo fare tutto là. Mi devo fare su di Napoli. Oggi Tore non si è sentito, non ci deve essere, sarà allenamento. Sì, però. Vado in ufficio. Cos'è? Vado in ufficio. Camila, io ti brutti i pantaloni. E beh, spariti siete. Boh, mamma mia, ma però. Buffo, e beh. Scappato te ne sei. Eccomi, e beh, sto entrato, No. Vuol dire al campetto, con i buzzi. È dormito. No, sicuramente avrà portato il nipotino allenamento di via Santo Giovanni, mi pare. Ah, ho capito. Due volte alla settimana lo porta, così mi aveva detto, mi pare. Due volte alla settimana. Mi sembra, ma oggi è martedì. Martedì è giovedì, o il venerdì, non mi ammetto. Vabbè, a me lo gioca con la rete. E beh, si tiene in allenamento e arriva a arrivare il piccino a correre. E io non l'ho portato a mia figlia quando era piccola. Aggiungo, a voglia, lui. Ah, sono lì portate. E va a regalarmi a lui. O se non li ha mandati di uno quando. Ma tanto, cosa me ne ha fatto. Certo come in casa. Grazie, ma non mi fa un piacere. Avanti a farmi il voto per la patente. No, vabbè, conosci un amico che c'ha di noi che lo gratta al cielo. Purtroppo oramai ha perso la memoria, magari se ti posso il nome lo conosci. Oramai ha perso la memoria e l'ha ritirato in casa sua. Sino che c'ha di noi tutta la vita in giro, una borsa, e ne veniva pieno di rughita, chi ci va a cattava, va. Quello li faceva. Stanno frequentando il circolo degli autisti, tutti i circoli, si deve fare documenti, gli dati mille franchi, allora, andati a te ti fai tutti i documenti che vuoi. Ma io ti ho detto, se vuoi a farmi le foto tu. E mi devi dare un capo, baro. Dunque, taglia di nero, poni in una borsa. Ehi, Ando, cioè mandemo che ti riposto qua, da. Ehi, ma a dirvi, lo sai dove me le ho fatte io, le foto? Aucia, a Fannapoli, lì in via Roma e giri in via Giorgia Spruni, di fronte alla chiesa, guarda, di San Giuseppe, c'è una, un coso di fotografie. Poi li rinati, boh, ti regolo il sedile, io le ho fatte lì le foto, per il tesserino del tram. E poi le ho portate lì in via Roma, che l'ufficio è lì in via Roma, capito? Per fare l'abbonamento, e mi hanno dato un tesserino con la foto, no? E ogni anno paghi. E beh, io le ho fatte lì in via Corso Vicco per la patente. E beh, ma fanno tutto loro lui, o no? Io sono andato, ma l'ho fatto tutto loro, ho pagato e sono a patente a casa. Ma le foto gliele devi portare, Giovanni. Ah, oh, me le fa lui direttamente. Sono già parecchi anni che io vado lì sempre, capiamo, grazie al cielo. No, fa la foto è tutto lui fa, capito? E allora vai lì, Luca, ti fate tutti i chivi. Che ha fatto io? Ah, l'hai già fatto, No, quando lo facevo io le foto gliele portavo io, tre fotografie. Ah, no, a me me le fa sempre lui, le foto. Prima, sì, quando facevo la Dade Monti, sì, via Leadua, me le facevo io, invece da quando sono andato lì, già tre volte che me lo sono rinnovato, mi fa sempre tutto lui, capito? Per cui non mi so fa. Lo paghi 75 euro, che fa tutto lui. Buono, io ci paga tostata, ma fa la visita, dai, ci rimbambiti. Mi se ne piace di solo ma 80 euro, gli avrà la giurista che si imbecilli della commissione. A chi? Se no mamma con una riavvata, non sapevi preso 80 euro così, ma. No, io vado sempre da quello che è molto bravo, per cui. Ah, la polizia, fa anche quello della polizia, lo fa tutto quello lì, lo fa, capito? La polizia va tutto lì a fare per il rinnovo, capito? Eia, Luca, niente, ha sentito di quell'incidente in moto lì in via Domenico Millelli, alle Punti, per girare a San Giovanni, no, a San Giorgio. Quella moto, chissà macchina, chissà anziano non era lampato, chissà anziano 89 anni ci aveva. Dimmi. È colpa di là, della macchina o della moto? Sì, l'ho sentito, è morto quel tipo di portatore. E adesso fece lui? La settimana scorsa. Ma di chi era la colpa? Non lo so, infatti, sono con i zenni, niente, hai sentito un giornale, la televisione non ha detto nulla. È morto, durante l'ambulanza, io l'ho visto domenica, è successo. Oh, domenica è successo, vero? O sabato? Quando siamo andati in campagna? Sabato. Ah, sabato. È colpa del vecchietto perché ha fatto un'inversione a U. E io quando sono passato, che ho accompagnato mia figlia, vera la macchina in mezzo alla strada, la moto non l'ha giuvita, papà. Vera lì, carabinieri, vigili urbani, un sacco di polizia, pompieri. E poi l'ho vista a Violina, la moto tutta disintegrata, una moto cross di 15 anni. Qual è che ha fatto l'inversione di marcia, la macchina? Ha fatto un'inversione a U per girare a San Giorgio, il tuo anziano, 89 anni, in macchina. Ha fatto l'inversione che non doveva fare, che arriva dritto e si è scidinata la macchina, in pieno. Non so che lavoro l'ha fatto, ma un lavoro un bel manno. Infatti c'era la polizia riprendendo il rilievo e tutto. E chi era dentro l'ambulanza, ma è morto dentro l'ambulanza. O di Porto Torres era quel tipo, quello che è morto. Per carità. Certo. Allora si è fatto l'inversione, certo, allora è colpa sua. Ha fatto l'inversione anche lì non la beva, ma buffonegni. E la strada a quattro corsie, si vuole fare l'inversione ma entra a San Giorgio. E non va bene, no. Vabbè, però a 89 anni io la patente veniva abbigliata a 80, massima 80. Sei libero di capo, non sei libero. Più di 80 ne avrei prese le patenti. A chi da poco ne era successo un altro, mi sembra un uomo umano. Certo, per i capi, certo. Già che non puoi fare quell'inversione, almeno a Baide fai il piano e vedo un po' che non sta prendendo nessun mezzo, che perfettamente si è distratto. Marcello, sono momenti pericolosi quelli lì, Ma lì lui doveva risalire alla rotatoria. dove va a risalire, se no entrava alle punti e faceva tutto io, si metteva sulla corsia dove doveva girare e non era su stesso nuda, invece appiccate a girare la lampada di chi era rivenne e vai a leggere un conto, busi e non mi vanno. Un macello è adesso. Per incidente stradale, senz'altro avranno arrestato. Boh, non so che a 89 anni si sta arricciando, l'avranno dato l'arresto domiciliare, come quell'altro di Canica. Chi sono andato a rifilare, lo pulia continuare il curifura dell'ospedale e l'hanno arrestato. E si è buttato a bancare. In macchina bisogna stare ben attenti, oggi che oggi, più che mai, oggi più di prima, a chi si non seduce, si è nato all'altro, gli avrebbe pensato l'altro, ha venuto in innanto. No, l'ubostino è morto, che era in coma. Così è, beh ragazzi, io chiudo là, ce la sentiamo domani, ciao Gio Maria, salutone alla tua 50. Buona cena, buon tutto. Ciao Luca, lo stesso, ciao Luca Flippe. E chi c'era pure? Ciao Marino, se sei in ascolto. Saluti a chi è in ascolto anche. Riprendi tu Luca e chiudo. Sì, ciao Paoletta. Ma ciao, grazie. Sono da Paoletta, la parte di Marina. E buona cena, ciao. Ciao, è ricambiata il centro da Paoletta. Sta bene da TV. Sì, avanti Giovanni. Ciao, grazie a sentiamo, saluti in casa, dai. Alla prossima, e anch'io chiudo il saluto in casa, dai. A domani. Mi raccomando, piano piano domani, non ti sforzare. E falli scizzare su. Ciao, chiudo. Ciao, ciao a tutti, a domani. Ehi, ciao Giovanni, alla prossima, ciao. E lui!